Mix 24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Michele Maio, 58 anni, medico ricercatore, sposato con una figlia, napoletano, studia a Napoli, poi si specializza in alcuni dei più importanti centri di ricerca per il cancro negli Stati Uniti, è direttore dell'unico reparto interamente dedicato all'immunoterapia oncologica di Siena e al primo posto nella top 10 mondiale dei centri dedicati a quest'area medica. Nel 2004 crea il network italiano per la bioterapia dei tumori, oggi sono 150 i gruppi di ricerca coinvolti nei progetti medici che hanno in lui Michele Maio il fulcro e il conduttore. Professore, lei da 30 anni studia come combattere i tumori e con l'immunoterapia ha rivoluzionato le cure tumorali e allungato la vita di tanti pazienti. Ecco, prima di spiegarci come ci è riuscito, voglio far sentire ai nostri ascoltatori proprio la storia di uno dei suoi pazienti a cui lei è riuscito a allungare la vita. Avevo un neo da molti anni e a una visita di controllo il dermatologo principale, il primario dell'ospedale di Prato, me lo vide, me lo levò d'urgenza e purtroppo quello era il quarto livello con metastasi. I mesi di vita potevano essere da 3 a 6, era quella la storia. Sembra di star bene, invece ci sa questa spada di Damocle sulla testa che può cadere da un momento all'altro. Fortuna volle che in quel momento il dottor Michele Maio stava cercando qualche persona da entrare ancora nella terza fase dell'esperimento internazionale dove veniva testato questo farmaco innovativo. Insomma, niente, mi hanno messo in questo esperimento dopo 40 giorni la prima attacca di controllo e era leggermente aumentato. Dall'ottava o nona attacca, non ricordo bene, ha cominciato a regredire sempre di più fino alla, in tre tac successivi a sparire completamente. Non so, e se si considera che io nel 2011 ero in questa condizione, siamo nel 2016, qui sono più forte di prima, quindi è un bel risultato di questo farmaco. Vabbè, il paziente dice un bel risultato, professor Maio, io dico un miracolo, siamo vicini al miracolo, eh? Ma non parlerei di miracolo, parlerei però, di razionale, certo, utilizzo di quello che abbiamo a disposizione delle nostre conoscenze, ecco, ma certamente un bel caso. Ecco, professor Maio, ma perché l'immunoterapia riesce dove la chemioterapia e la radioterapia non ce la fanno? Sostanzialmente chiedi perché con l'immunoterapia noi rieduchiamo il nostro sistema immunitario, quindi le nostre difese, a tenere sotto controllo il tumore. Il nostro sistema immunitario lo sa fare molto. E quindi come bene lo definirebbe l'immunoterapia? Come realmente, che di rieducare, che di la capacità del nostro organismo a tenere sotto controllo il cancro. Ecco, e no. Questo riesce a farlo che di a lungo termine. Ecco, professor Mario, ci spiega come funziona, come fa? Noi sostanzialmente che utilizziamo dei farmaci che vengono somministrati un po' come la chemioterapia per via endovenosa che dai pazienti. Questi farmaci però hanno, al contrario della chemioterapia, non devono distruggere le cellule tumorali, ecco, ma vanno a livello del sistema immunitario, vanno attraverso la modulazione dei meccanismi con cui funziona il sistema immunitario, lo attivano e fanno sì che sia il sistema immunitario stesso a tenere sotto controllo la malattia. Ecco, quindi il nostro sistema immunitario viene come allenato, sollecitato ad aggredire direttamente le cellule, cioè si contrappone. Assolutamente sì, è quello che sostanzialmente che di noi facciamo, risvegliamo la sua capacità di a contrapporsi e a tenere sotto controllo. Cioè noi avevamo questa possibilità che non era sollecitata. Il nostro sistema immunitario nel corso della nostra esistenza moltissime volte elimina cellule trasformate, quindi noi non sviluppiamo un cancro perché il sistema immunitario è in grado di eliminarlo. Le cellule tumorali però poi riescono a cambiare le loro caratteristiche, a sfuggire al controllo del sistema immunitario e quindi dobbiamo rieducarlo a fare quello che sa fare molto quindi bene. Lo alleniamo, insomma, un po' di palestra per il nostro sistema immunitario. Senta, ma se la chemioterapia aggrediva e distruggeva le cellule tumorali, anche quelle sane, però l'immunoterapia invece non è che le distrugge, si rinforza e si contrappone, così? Assolutamente sì, sì, nel senso che con la chemioterapia noi in maniera un po' indiscriminata, esatto, spariamo col cannone anche per ammazzare una mosca. Certamente, distruggiamo tutte le cellule che sono in grado di replicare, quindi anche di dividersi, quindi di crescere, quindi anche le cellule normali che non devono crescere. Ad esempio i capelli cadono perché con la chemioterapia noi distruggiamo le cellule che producono i capelli. Certo. Quindi con l'immunoterapia questo non è necessariamente che di vero, ha degli effetti collaterali, ma sostanzialmente non facciamo che di la stessa cosa. Ecco, gli effetti collaterali, lei ne accennava, gli effetti collaterali della chemioterapia sono molto pesanti, quelli dell'immunoterapia invece? Gli effetti collaterali dell'immunoterapia sono molto diversi rispetto agli effetti collaterali della chemioterapia. Cioè di che genere sono? Non cadono i capelli. Nel sentire comune, nel pensare comune, la chemioterapia viene vista come nausea, vomito, caduta dei capelli sostanzialmente. Esatto, più o meno Almeno queste sono le manifestazioni esteriori, diciamo, degli effetti collaterali della chemioterapia. Con l'immunoterapia noi abbiamo degli effetti collaterali, sono in genere, sono molto diversi, possono essere anche importanti in alcuni pazienti e sono legati direttamente al meccanismo d'azione di questi farmaci. Cioè? Quando noi attiviamo il sistema immunitario, il nostro sistema immunitario nella stragrande maggioranza dei casi riesce a tenere sotto controllo e quindi a dirigersi verso le cellule tumorali, ma si attiva un po' come nelle malattie autoimmuni, in cui si attiva più di quello che noi vorremmo, alcuni casi, e quindi dà effetti collaterali che sono legati a questo, ma che noi sappiamo tenere sotto controllo. Sotto controllo sono meno gravi di quelli della chemioterapia? Sono in genere meno gravi, in alcuni casi che li possono essere gravi, che anche importanti, ma sappiamo, ripeto, diarrea, assolutamente importante, quindi manifestazioni endocrine, quindi ipofisiti, manifestazioni neurologiche, sto parlando di quelli estremi e di quelli sicuramente percentualmente che di molto ridotti. Ecco, ma è vero, professor Maio, che l'immunoterapia funziona ancora meglio contro i tumori più aggressivi e anche più letali? Finora i maggiori risultati, e quando parlo di maggiori risultati intendo farmaci che hanno fatto tutto il loro percorso di sperimentazione, che sono disponibili sul mercato, sono stati ottenuti sicuramente in tumori assolutamente letali. Il primo di questi è il melanoma di cutaneo, un tumore della pelle, per il quale fino a qualche anno fa non avevamo praticamente nulla, si moriva e basta, non avevamo nulla che potesse migliorare la sopravvivenza dei pazienti. Poi siamo passati al cancro del polmone, ad alcuni tipi di cancro. Ma quella della pelle, a che risultati avete invece di 90? Banalmente abbiamo triplicato la sopravvivenza dei pazienti a un anno, abbiamo raddoppiato la sopravvivenza dei pazienti a 5 a 10 anni, quindi abbiamo ottenuto dei risultati assolutamente spettacolari in una patologia molto aggressiva per la quale non avevamo nulla a disposizione. Ecco, l'immunoterapia ha risultati sorprendenti anche, appunto, stavamo dicendo, in tumori in fase avanzata. Sentiamo una testimonianza di un altro dei suoi curati, io dico miracolati perché mi fa un'impressione. Sono venuto qua, ero 63 kg con uno storico molto pesante, perché la malattia mi ha preso i linfonodi, mi hanno tolto 42 linfonodi qua, poi mi ha preso il cervello, sono stato operato al cervello, mi ha preso i polmoni, mi ha preso le ossa, infatti ho la tibia inclinata. Io nell'arco di 3 mesi, 4, ho cominciato, perché avevo una ciste, me ne accorgevo qua sul petto, che era molto evidente. Ho cominciato a riassorbirsi piano piano, e adesso ho ripreso una vita normale. È incredibile, professor Maio, questa pazienza, lo dice lui, non era messo bene, insomma, tumore gli aveva preso, i linfonodi, il cervello, i polmoni, le ossa. Quanto tempo è guarito? Ha impiegato un certo periodo di tempo, alcuni mesi, perché questa è un po' la differenza fra la chemioterapia e l'immunoterapia, nel senso che quando l'immunoterapia funziona, come dicevamo prima, nel rieducare il sistema immunitario, questo processo richiede tempo, quindi solo dopo un certo periodo di tempo in genere noi riusciamo ad ottenere questi risultati, anche risultati molto buoni, anche in pazienti che hanno addirittura... questo stava messo proprio male. Era messo male, sì. Ecco, ma oggi non c'è più traccia di tumore da nessuna parte in questo paziente? No. Cioè, Una volta si chiamavano miracoli, queste cose qua. Senta, ma perché l'immunoterapia funziona su casi anche in fase già avanzata? Cosa, come mai riesce a incidere là dove sembra che non ci sia più niente da fare? Questa è un'acquisizione che noi abbiamo ottenuto veramente negli ultimi anni, nel senso che l'immunoterapia non è nata oggi, l'immunoterapia del cancro è nata 100 anni fa in maniera ovviamente assolutamente molto empirica. Fino a qualche anno fa la convinzione assoluta era che l'immunoterapia funzionasse quando c'era poca malattia, quindi nelle fasi iniziali, quindi quando quello tecnicamente che si chiama un ridotto carico di malattia. Sì. Adesso però stiamo imparando, abbiamo imparato, per meglio dire, che non è necessariamente vero e che anche pazienti che hanno una malattia importante, avanzata, che però hanno delle condizioni adeguate per poter essere trattati, questo è molto importante. Cioè cosa vuol dire condizioni adeguate? Condizioni adeguate significa che debbono avere la possibilità, nella stragrande maggioranza dei casi ad esempio, di essere inseriti ancora in sperimentazioni cliniche. Le sperimentazioni cliniche, gli studi clinici, certo, hanno dei paletti molto precisi, quindi ci vogliono le condizioni di perché ci sia la possibilità di incidere. Ma su professore, lei ha detto che l'immunoterapia viene da lontano, viene da 100 anni, eccetera. Ma perché ha vinto finora la chemioterapia e non ha vinto l'immunoterapia? L'immunoterapia sta recuperando adesso. Cos'è capitato? Perché siamo stati meno bravi rispetto agli oncologi che si sono sempre interessati. Si sono venduti meglio? Assolutamente sì. Nel senso, negli ultimi 30 anni noi abbiamo comunque imparato moltissimo nei meccanismi intimi che regolano l'interazione fra le cellule tumorali e il sistema immunitario. E abbiamo imparato moltissimo come funziona il nostro sistema. Perché è affascinante, se ho capito bene, questo fatto che voi in fondo queste cellule tumorali non è che le ammazzate, come le contenete. Si possono fare entrambe le cose. In alcuni casi la malattia scompare, in alcuni casi noi abbiamo pazienti che sono da noi in terapia da 7, 8, 10, 12 anni che hanno ancora evidenza di malattia, ma questa malattia è ferma. Quindi probabilmente non le abbiamo ammazzate tutte, ma le teniamo sotto controllo con quei famosi muscoli che abbiamo dato. Assolutamente. Senta, ma quanti pazienti ha in cura lei, professore? Tanti, sono centinaia e centinaia. Noi vediamo a Siena pazienti che vengono da tutta Italia, che vengono dall'estero. Molti di questi pazienti ci vengono riferiti da altre oncologie, da altri colleghi, proprio perché a Siena abbiamo una ampia gamma di sperimentazioni cliniche, quindi possiamo praticamente trattare praticamente qualunque tipo di tumore. Quindi quanti ne avete già curati? Centinaia, non lo saprei. Non lo sa? Non lo so. Senta, ma di quanto si allunga la prospettiva di vita di un malato con queste cure? Quando l'immunoterapia funziona, come dicevamo prima, tende a migliorare la sopravvivenza dei pazienti. Questa è la differenza fondamentale con la chemioterapia. Dire di quanto si allunga, nel caso che è più complesso, certamente nella media di mesi e mesi, ma l'obiettivo ultimo dell'immunoterapia che stiamo raggiungendo è quello di aumentare la sopravvivenza a lunghissimo termine. Parlo di lunghissimo termine, cioè insomma che si muore solo perché ti casca in testa una cosa, insomma, non più per altro. Sperabilmente non ti casca neanche quella, quindi, quindi non muori proprio. Senta, ma allungare la vita e ridare speranza non è una cosa da poco. Sentiamo, appunto, legato a quello che stavamo dicendo, sentiamo questa testimonianza. Ho fatto i cammini di Santiago, io ho strafatto, ne ho fatti 1050, la media di 24 km al giorno. Un'avventura indimenticabile, me lo ricorderò finché campo, speriamo tanto. Io non so come evolverà. Può darsi anche la prossima TAC va avanti e per me non ci sia più rimedio, ma a me mi hanno fatto già vivere 5 anni di vita incredibile rispetto a quella che facevo prima. È quasi ridicolo dirlo, ma io mi sono divertito con questa situazione, no? Invece di speriamo la continui. certo, avere questa gioia di vivere ritrovata è qualcosa che apre il cuore anche a voi, penso, no? Assolutamente, questo poi è l'obiettivo finale. L'obiettivo non è quello di aumentare la sopravvivenza dei pazienti di un mese, due mesi, tre mesi, questi sono tecnicismi. Certo. L'obiettivo è quello di cercare, in una percentuale che deve crescere, deve aumentare negli anni, di i pazienti che sopravvivono a lungo termine, ecco. E che ritornano alla loro vita di prima, o forse di alcuni di loro a una nuova vita, una anche vita perché diversa. Forse si scopre una nuova vita in questi casi. Credo, no? Proprio di sì. Credo gli psicologi che lavorano con voi cosa vi dicono? Gli psicologi che lavorano con noi ci dicono che c'è un passaggio che è un passaggio assolutamente importante, che molti pazienti vedono la loro vita in maniera assolutamente diversa rispetto a prima. Cioè. Senta, ci telefona una signora, signor Francesco da Bari, dice la madre che sua madre ha un tumore al cervello. Questa terapia può essere applicata anche al tumore al cervello? Noi proprio in questi giorni stiamo partendo con è molto difficile rispondere alla domanda. No, certo, ovviamente. No, però, ma io per dare in un linea concetto generale non vale per il dare caso un concetto che non si generale che di noi in questi giorni l'immunoterapia non, i pazienti con tumore al cervello, sia che si sia diffuso al cervello, sia che sia partito dal cervello, sono sempre stati esclusi quindi dall'immunoterapia e dalle sperimentazioni in generale. Come mai? Perché si è sempre considerato il cervello come un organo separato dal resto dell'organismo, in cui se non arrivava la chemioterapia, figuriamoci ci si arrivava il sistema immunitario. Questo concetto sta cambiando. Noi abbiamo in questo momento attive proprio all'interno del NIBIT, come lei ricordava, delle sperimentazioni in pazienti con melanoma che hanno metastasi al cervello, e stiamo ottenendo dei risultati estremamente interessanti. E partiremo in questi giorni con alcune sperimentazioni che invece sono dirette a un particolare tipo di tumore che nasce a livello del cervello. Ma quanti ricercatori ha lei con sé? Complessivamente noi abbiamo due aree, l'area clinica e l'area di ricerca in senso stretto di laboratorio, sono circa 35 persone complessivamente, molti sono ricercatori che lavorano solo in laboratorio e che danno un poi enorme poi ci torniamo supporto. Sulla ricerca, intanto volevo sapere, i pazienti che lei ha in cura sono sottoposti a un protocollo di sperimentazione, l'ha detto, quindi i farmaci vengono somministrati gratuitamente? Certamente sì, nel senso che finché i farmaci non raggiungono il mercato, all'interno delle sperimentazioni cliniche vengono forniti gratuitamente, come viene fornita gratuitamente tutta l'assistenza di quel paziente. La TAC non è a carico del sistema sanitario nazionale nel momento della ricerca, nel momento che della sperimentazione. E per gli altri invece? Per gli altri pazienti, quando i farmaci poi entrano nel commercio hanno il prezzo del mercato. Hanno il prezzo del mercato. Ma il prezzo del mercato in questi casi è un prezzo molto alto, no? Il prezzo sul mercato di questi farmaci al momento è molto alto, è alto un po' in più rispetto a tanti altri farmaci che ormai abbiamo a disposizione. Questo certamente è un punto sul quale bisogna lavorare, è un punto peraltro dove in cui in Italia anche il ministro Lorenzin si è molto impegnata a rendere disponibili questi farmaci, è molto sensibile. Perché se no quanto può costare un ciclo? Circa 100.000 euro all'anno. 100.000 euro all'anno. Fra i 50 e i 100.000 euro all'anno. Quindi soldi, tanti soldi. Perché in fondo è una direzione della medicina, no? Sostanze, medicamenti sempre più mirati, sempre più quasi personalizzati, ma anche sempre più cari. Sì, la direzione in qualche maniera è questa. Dobbiamo essere noi bravi nei prossimi anni, a denucleare i pazienti che rispondono a questo tipo di trattamenti, quindi a migliorare ancora di più l'offerta, prevalentemente per i pazienti che potremo identificare prima come i migliori candidati a questo tipo di trattamenti. Si può dire come si chiamano questi farmaci? Ci chiedono, può essere indicata il nome, insomma, questi farmaci hanno un nome? Questi farmaci sono sostanzialmente molti di questi, quindi quelli di cui stiamo parlando in questo momento, perché l'immunoterapia ha tanti tipi di farmaci, sono sostanzialmente degli anticorpi. Sono anticorpi quindi che si legano a molecole espresse sulle cellule del sistema immunitario e le attivano. Sì, ma molti ci stanno scrivendo e telefonando perché vogliono che io ripeta dove lei lavora, perché sono molto colpiti, e io lo dico: è direttore dell'unico reparto dedicato all'immunoterapia oncologica dell'azienda ospedaliera di Siena. Questo lo dico per i nostri ascoltatori che ci scrivono. Senta, professore, qualche settimana fa è uscita una notizia che in Germania sembra che stiano studiando un vaccino universale capace di tenere sotto controllo il tumore. Una notizia che ha fatto un botto, proprio, si dice in gergo. Ma è vera? Ma allora, è vera nei termini in cui, fra l'altro, il gruppo tedesco è un gruppo che io conosco molto bene, sì, con cui collaboriamo, credo per molti versi, è vera nel senso che i vaccini terapeutici, quindi farmaci che attivano anch'essi il sistema immunitario in maniera specifica, si stanno utilizzando da tantissimi anni. Il gruppo tedesco ha in qualche maniera negli ultimi anni lavorato su un meccanismo di somministrazione. Senta, però, per capire bene, somministrazione diversa, lei è molto elegante, però mi sembra di capire che sostanzialmente la cura a cui si riferiscono i ricercatori tedeschi è la sua, cioè hanno speso la sua invenzione. Sui vaccini siamo in tanti che a lavorare. È stata utilizzata un termine e un lancio completamente diverso. Diciamo, sono più bravi di voi a far parlare di sé. Vabbè, questo sì. Ecco, ma perché si parla di loro e non si parla di voi? Questo è un problema. Non siamo capaci, è colpa nostra, giornalisti. Io credo che sia un po', fra virgolette, colpa di tutti noi. Credo che una corretta informazione, peraltro, su quello che succede, sulle tante cose buone che accadono anche in Italia, ne parliamo che poco. Sono competitivi a livello internazionale, ne parliamo poco, guardiamo più gli aspetti negativi. Cioè, noi siamo abituati positivi a parlare male di noi, sì, invece che a parlare bene. Assolutamente. Questo purtroppo è vero. In tanti ambiti. In tanti ambiti. Infatti, tanti pazienti scrivono e non sanno che esiste questa possibilità terapeutica. Perché? Per questa ragione? Credo anche per questa ragione. Ma anche una disinformazione dei medici di base? I medici di base, che i medici di famiglia stanno imparando, perché sono bravissimi a tenere sotto controllo gli effetti collaterali, sì, della chemioterapia, devono essere imparare assolutamente. Questo vale anche per molti oncologi che però ormai stanno diventando più avvezzi ai successi dell'immunoterapia, però che si confrontano con una strategia terapeutica completamente diversa rispetto a quello che loro hanno fatto per tutta la loro vita. Quindi è per la pigrizia mentale anche non aiuta. Tante volte. Senta, professor Maio, ma da questo punto di vista la ricerca italiana è all'avanguardia. Il suo caso è un caso, non dico da nome perché non sta a me giudicare, ma certamente di altissimo livello. Ma per il resto come siamo messi? Ma allora, l'Italia, ad esempio, nell'immunologia, nell'immunoterapia dei tumori, ha certamente un ruolo assolutamente fondamentale a livello internazionale. Noi abbiamo gruppi che storicamente hanno dato un contributo fortissimo a questo ambito. Quindi siamo messi complessivamente abbastanza bene. I ricercatori, me l'ha detto che lavorano con lei, quanti sono? Ma Siena è definitiva come luogo di sviluppo delle sue ricerche, oppure c'è una possibilità di che, cioè c'è un momento in cui è necessario crescere, perché per migliorare è necessario crescere, andare in ambienti anche più larghi, più disponibili? Non lo so, adesso non so come fargli questa domanda. Ma non è una domanda facile. No, io nella infatti, mia vita professionale, quello che posso dire, ho attraversato varie istituzioni. L'importante è cosa che riesci a ottenere dalle istituzioni. Stare nel clima più giusto, può essere più grande, più piccolo, però insomma Maradona alla fine è meglio se gioca nella Juve invece che nel Como. Quindi diciamo che è meglio andare dove i contesti sono più disponibili. Però no? Siena è stato un passaggio, è importante. Un passaggio assolutamente importante su cui vogliamo costruire. Ecco, lei dopo, anche perché poi se uno si muove deve muoversi con la squadra, perché se si muove da solo deve ricominciare da zero, allora è meglio, è troppa fatica, è anche forse senza inattivo. La squadra non si va da nessuna parte. E poi se la squadra è meglio di noi, ancora meglio. Deve essere migliore di noi. Senta, lei dopo essersi formato negli Stati Uniti è tornato in Italia, e qui perché? Ma perché sostanzialmente io sono rientrato in Italia quando avevo 30 anni praticamente, che mi sono arrivato a 24, su cui ho vissuto 5 anni negli Stati Uniti. Sono rientrato in Italia perché volevo assolutamente capire in che maniera riuscivo a mettere in piedi un programma che di forte in quello che mi interessava anche in Italia. E non è stato facilissimo, ma si può fare. Quindi non è vero che l'Italia non è un paese per ricercatori? No, secondo me non è un paese che di per ricercatori, cioè è un paese che di per ricercatori, un paese nel quale però bisogna impegnarsi molto di più rispetto ad altri paesi che hanno un ambiente che facilita la ricerca. Ecco, sì, è sempre quel discorso del contesto che facevamo prima. Assolutamente, ecco, però in Italia si può fare. Lei è napoletano, ma è vero che ha trovato una napoletana in America, si è sposato con una napoletana che ha conosciuto mentre studiava? Sì. Una collega napoletana che era andata a lavorare negli Stati Uniti e che per caso ho conosciuto sono ritornato nel college. Anche questo è divertente. Senta, un'ultimissima cosa, ma professore, le ultime sfide, le sfide nuove che lei sente davanti a sé, quelle sulle quali ricomincia da capo come sempre, come tutti i grandi ricercatori, quali sono? Le sfide sono certamente su questo che dalla fine dell'anno avremo un programma fortissimo che porteremo avanti, sono utilizzare nuovi farmaci, quindi verso nuove molecole, quindi ancora più nuove rispetto a quelle di cui abbiamo parlato. Ma quando finora lei dice nuove, vuol dire nuove che faranno cosa di più e di diverso? Vuol dire nuove nel senso che non sono mai farmaci che non sono mai stati utilizzati ancora nell'uomo e quindi verso dei bersagli immunologici tipo completamente diversi. Faccio un esempio, una molecola che si chiama ICOS, che è espressa sulle cellule del nostro sistema immunitario quando si attivano, quindi viene fuori sulla superficie dei nostri linfociti quando questi sono attivati, e utilizzeremo degli anticorpi che bersagliando questa molecola li attiveranno ancora di più. Quindi saremo ancora più forti nel rispondere al tumore. Saremo ancora più forti, sperabilmente, anche nel rispondere al tumore, assolutamente. Grazie professore, ricordo il professor Michele Maio, ce lo continuano a chiedere, direttore del reparto di immunoterapia oncologica di Siena. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS, pubblicità. Mix 24. Allora Mario, grande questo professor Maio, c'è il titolo per l'intervista? Umano e quindi giusto. Umano, bello. E tu Pietrangelo? Farei così, la vita ritrovata. Bene, grande uomo, veramente un grande. Sono persone che rimettono al mondo in tutti i sensi. Perché si occupano delle cose fondamentali. Sì. Bene, allora Pietrangelo, la tua canzone arriva. Why does my heart feel so bad? Why does my soul ragazze in redazione, in regia, dicono che è una rivoluzione che ha messo in mobile. Sì, veramente, io non commento più. Sono preoccupato. Sta evolvendo il Ramadan. Dai. Sono molto preoccupato. Oggi treno e perciò finestrini. Finisce il viaggio e si entra in un romanzo. In un vagone c'è un'anima, in un altro un cuore. Ma non è un solo treno, sono due. E due i sensi di marcia. Su uno viaggia un cuore ferito, ferito a morte, sull'altro un'anima che sente di poterlo risarcire. Ha telefonato Roxanne, ha chiesto questo brano per il suo amato cugino Cirano, con un messaggio: portami sulla luna, c'è già un treno in partenza. Sì, noi ci siamo stati, abbiamo trovato il treno. Mi ricordo nell'hangar dello shuttle c'era il treno di buttafuoco. Vai con la tua bolla, Mario. Va bene. Ps. psichedelica al massimo. Looking at the world through the sunset in your eyes, juggling the train through clear Moroccan skies. Mi viene a pensare al peyote, non so perché non chiedermi. Vabbè, Crosby, Stills, Nash & Young. Allora? Marrakesh Express. Va bene. Vabbè, in realtà la musica è molto psichedelica. La notizia è, diciamo così, un po' più concreta. Non, sì, molto, molto solida, molto spessa. Ma c'è un processo in corso che riguarda una disputa tra Goldman Sachs e il fondo di investimento della Libia, no? Il Libya Investment Fund. È interessante perché Goldman lavorò col fondo libico nel 2008, negli anni di Gheddafi, tra l'altro. Bisogna sempre annotare sul taccuino che con Gheddafi lavoravano tutti. E insomma, la disputa è questa. Il fondo ha perso 1.2 miliardi di dollari e secondo le ricostruzioni fatte avrebbe invece Goldman vi avrebbe guadagnato sopra 200 milioni. Ovviamente Goldman dice non è così e dice anche che quelli del fondo erano veramente un po', diciamo così, un po' scarsi. Cioè sostanzialmente la Libia accusa Goldman di avergli fatto perdere 1,2 miliardi di dollari. Un testone pieno. Guadagnandone lui 200, beh, però bravi, devo dire. Bravi, non so, dipende il parametro. Bravi. E insomma, c'è una causa in corso. Io sto seguendo le cronache, sono molto divertenti. Anche perché poi questi spendevano i soldi un po' ovunque. Ma insomma, vedremo come va a finire. Segnalo sempre che dove c'è oro e petrolio, alla fine c'è Goldman Sachs. C'è sempre Goldman. Vabbè, ok. Bravi. Salamino. Per i nemici non c'è scampo quando c'è Marielle in campo. Il gioco si fa duro e arriva la più dura. E scansate, Nino, che arrivo io così, sembra dire Maria Elena Boschi al povero Matteo Renzi in grande difficoltà già al primo turno delle amministrative. E infatti, signori, non è più... Non è più Shabadabada la signora, bensì la mutazione avvenuta è già stata registrata perfino dalla Ghisleri, bensì è diventata questo. Crudelia Demo, Crudelia Demo, farebbe paura perfino a un leone. Insomma, fa paura perfino ai leoni, ma... Perché tutto questo? Perché ben tre ragazze fanno impensierire i comunisti. Una è Lucia Borgonzoni, leghista a Bologna. Quindi Virginia Raggi, 5 Stelle a Roma. Chiara Appendino, 5 Stelle a Torino. E il gioco è ben duro perché? Perché mai questo gioco è ben duro? C'è un motivo. Le stelle sono tante, milioni di milioni. Perché le stelle sono tante e quindi vabbè. La preoccupazione incombe, perché poi l'azione dei maschietti del PD, solitamente concentrati sulle narrazioni retoriche obbligatorie, fanno acqua. Una su tutte, Giovanni, è quella del portavoce di Lotti, l'uomo più potente d'Italia, che sulla signora Appendino apparecchia la volgarità più inaudita. Cioè? Ha detto in un inaudito tweet: è bocconiana, sì, come citando una povera ragazza che è preda, diciamo, delle derive porno più assurde, ma proprio una povera ragazza. E così in questo repellente tweet è anche inutile fare, caro Mario, il gioco dei paragoni. L'avesse fatta un'uscita come questa un qualunque sfigato della destra, si sarebbe scatenata la tempesta. Io l'ho sempre detto, questa cosa di tweet è per malati. Sarà per malati, ma provate a immaginare l'avesse fatto uno di destra, sicuramente avremmo avuto l'editoriale del Corriere della Sera. Ma sai perché? Per l'allegato perché di non Repubblica. Si riflette, non no. Si riflette, uno tac, quella prima di pensare ha già twittato. Lo so, poi loro sono smart, vabbè, ha sbagliato però, lo ha ammesso però. Sì, ma a me adesso interessa il paragone, provate a immaginare l'avesse fatto uno sfigato di destra, provate a immaginare. Detto ciò, tornando a bomba, se per decifrare Matteo Renzi è sufficiente... Che la sua dimensione, il giubbottino, le ospitate da Maria De Filippi. Per capire le mosse del ministro Boschi, invece, urge Bachofen, Lisistrata, magari nella versione di Garinè e Giovannini, per poi giocare, e io ho individuato il personaggio giusto, nel ruolo di Calipso, ammaliatrice di ogni babbione, Ulisse in testa. E il discorso è questo: vuoi una pesca o una banana? Sì, Calipso, pure un ananas. Salti in bocca alla romana. No, perché se no divento gras. Oh, ma che vita squisita, gradita, che splendida. È la grande Milva. Ormai è tutto un, dice Boschi, e un, annuisce Matteo. Però, dove fa danni Renzi, trova riparo Maria Elena. Dopo alle amministrative, il referendum. Ma se vince il no, altro che Torino senza soldi. Se vince il no, dice la Boschi e Renzi annuisce, l'Italia sarà ingovernabile. L'Italia tornerà nella palude. L'Italia cadrà nella instabilità. L'Italia non avrà riforme per 30 anni ancora. L'Italia diventerà il paese degli inciuci. L'Italia non avrà più Pasqua, Natale, Epifania e soprattutto, specialmente poi, vince il no. Altro che vice segretario unico del PD, cui è destinato il ministro Boschi. No, non sarà così. Sarà lei a fare di Renzi il proprio segretario. E lui, infine, sconsolato, canterà così. Se me volisse bene, veramente, non mi faresti sfruria da gente, non mi tagliassi pizza da... Vabbè, allora, è più sfruguriato di così com'è, vabbè, poveretto. Però una cosa, per dirla una volta, una cosa un po' seria. È curioso come un rottamatore, innovatore, portatore di idee assolutamente rivoluzionarie, effettivamente non abbia trovato tre donne intelligenti e capaci da contrapporre a quelle che ha trovato i 5 Stelle. Questo è una cosa che mi colpisce. No, non c'è coerenza di racconto. Perché, diciamo, forse il rottamatore è un accentratore. Sì, sì. No, quello è senza forza, però posso, seriamente, seriamente, il partito è vecchio. Come? Sono tutti giovani. Uno cambia. Come? Hanno tolto la ditta. È segretario del partito. Certo, è anche da un bel po'. No, perché quella è la vera partita difficile che ha davanti Renzi. Assolutamente. Quella è proprio la cosa più difficile. Condivido. Vabbè, estremizzando si potrebbe dire che potrebbe chiuderlo e riaprirlo in forma diversa. Una bad company da rifare. Sì. Per dirla con Mario. Mi dici per favore. Mi dici per favore la tua bolla. Vai. La Bad Company non è male, poi la approfondiamo. Beh, questo è un classico, Brava. Glorietta non gli ha fatto. George Ben, no? Vabbè, Little Green Bag. Vabbè, in fondo green, verde, ci sta con questa bolletta che è un po' provocatoria, perché stavo leggendo alcune cose della MIT sulle energie rinnovabili. Sono molto interessanti perché entro il 2040, voi direte, ce ne vuole, è vicino in realtà. E allora? Diventeranno molto economiche, i costi scenderanno del 40%, sì, 40% l'eolico e il 60% il solare. Questo significa che dovrebbero, in teoria, tutti direbbero, è finita l'era degli idrocarburi e così via. Quanto di più sbagliato. Perché in realtà sono difficilmente rimpiazzabili, perché l'efficienza comunque degli idrocarburi è ancora altissima. E quindi è la disponibilità. Sia le rinnovabili, però intanto il petrolio aumenterà continua. La loro quota, però canzoniere. Io vorrei risentire soltanto il fragore della tua voce, sul bruno macigno dell'aria, la tua voce. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS pubblicità. Mix 24. Le novità. tecnici sono stati fatti, frutto appunto dell'improvvisazione, della pressione, del fatto che mancasse un coordinamento e forse anche un po' di scarsa fiducia in noi, negli speleologi. Si furono un po' fatti prendere la mano dal fatto che a quel punto la cosa era così importante che non potevano operare con successo quattro ragazzi, per quanto esperti, giovani, capelloni, fra virgolette, e in un posto come questo. Cioè, lì doveva essere lo Stato, doveva essere lo Stato a tirarlo fuori. Doveva essere lo Stato a tirarlo fuori. Così lo speleologo Tullio Bernabei, uno dei primi a calarsi nel pozzo di Vermicino. Forse è mancato lo Stato, certamente è mancato il coordinamento, ci sono stati invece molti eccessi, una generosità incontrollata, troppi tentativi spontanei, molto protagonismo, una folla ossessiva. In quel pozzo maledetto Alfredino Rampi trova la morte dopo 75 ore di agonia. E la sua è una morte in diretta, 60 ore di collegamento televisivo davanti a milioni di italiani. L'Italia di Alfredino, quelle ore, dal 10 al 13 giugno dell'81, quando il nostro paese dimentica l'attentato al Papa, le Brigate Rosse, la loggia P2, le emozioni, gli interrogativi e le accuse. Qui a Mix 24, il giallo della storia, dopo il giornale radio. Adesso col professor Roberto Bernabei commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. B&J aprile 2016. Effetto di età e sesso sull'efficacia e la tollerabilità dei beta bloccanti in pazienti con scompenso cardiaco. Lo scompenso cardiaco, le malattie cardiovascolari in generale, ma lo scompenso in particolare, sono tra le cause più frequenti di morte, e l'utilizzo dei beta bloccanti, questo farmaco che diminuisce la velocità della contrazione, la frequenza della stessa, è un po' stato un problema che ha tenuto in sospeso tutti i ricercatori. Per molti anni si aveva paura di darli, poi sono venuti fuori degli studi che invece incitavano, e oggi si è molto più inclini all'utilizzo dei beta bloccanti nei pazienti con scompenso, soprattutto, come si dice, con la contrattilità conservata, con la frazione di iniezione conservata. E questo studio, che è una meta-analisi di oltre 13.000 pazienti in 11 trial, ci dà la conferma, se volete, definitiva. Infatti, chi è che fa il beta bloccante in situazione di scompenso cardiaco ha il 5% di mortalità in meno in termini assoluti rispetto a quelli che non fanno il beta bloccante. E anche le ospedalizzazioni vengono ridotte, che è un indice indiretto che ci fa capire che queste persone stanno meglio, perché non hanno bisogno di essere ospedalizzate. Naturalmente questo conta meno se si è molto anziani, perché è evidente che quando si è anziani ci sono tanti buoni motivi per essere messi dentro l'ospedale, per cui non è il beta bloccante che riesce a essere così onnipotente da evitare le ospedalizzazioni. E per finire, Gloria Guerrera, che cosa ci dedica? Una canzone per chi torna senza nemmeno bussare, a fama e inganna. Alexia, dimmi come.